Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima puntata stagionale per il nostro programma. Chiudiamo il 2013-2014 con una storia esotica e al femminile che ci porterà fino in Estremo Oriente. Ricordatevi però di non desintonizzare assolutamente le vostre radio il sabato pomeriggio. Torniamo infatti da sabato prossimo, 5 luglio, e fino a metà settembre con una serie estiva davvero particolare. Sarà per il primo anno interamente dedicata alle puntate speciali più belle che hanno contraddistinto i primi 4 anni e mezzo di Giovani Talenti. Puntate a più voci, spesso tematiche, registrate in Italia o all'estero, che hanno messo a confronto tanti giovani connazionali espatriati per cercare opportunità professionali e prospettive di carriera allettanti, spesso difficili da ottenere nella penisola. Insomma, un'estate tutta da vivere e da rivivere con Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Laura Boldrini, presidente della Camera. Nelle scorse settimane la Boldrini ha visitato New York incontrando alcuni giovani professionisti emigrati. Al termine della visita ha pubblicato questo post. Le partenze restano sempre più numerose dei ritorni. Tra questi ragazzi sembra prevalere un senso di delusione verso il proprio paese, l'Italia, che non ha permesso loro di realizzare i propri sogni. A New York dicono di aver trovato un ambiente completamente diverso, dove basta una fotocopia del passaporto per fondare un'impresa, dove la burocrazia è amica, ma non sono rassegnati, scrive la Boldrini, che ha ammesso la crescita del numero dei giovani italiani che emigrano in cerca di occupazione. Cattive, pessime abitudini che non tramontano. Per cercare lavoro i 15-34enni italiani ricorrono prevalentemente alla rete informale di parenti e conoscenti, lo fa l'82%, 6 punti percentuali sopra il più, lasciatecelo dire, corretto e trasparente invio di curricula, 19 sopra il più moderno utilizzo di internet. Il 30% si affida ai centri pubblici per l'impiego, il 20% alle agenzie private. Un segnale positivo c'è però, rispetto a 6 anni fa crescono proprio il ricorso a internet e ai centri per l'impiego, lo rileva l'Istat. E chi fa peggio dell'Italia sul fronte occupazione lo si può contare ormai sulle dita di una mano, e il quadro allarmante che emerge dai dati OCSE per disoccupazione giovanile precediamo solo la Grecia. Secondo l'FMI la disoccupazione in Italia è a livelli inaccettabili, servono interventi di politica economica rapidi e coraggiosi. Per noi ora è tempo di volare fino in Estremo Oriente. Non vedevo nessun futuro in Italia per me, e quindi avevo bisogno di buttarmi e cercare di costruirmi da sola. Arianna Gellini, 30 anni, è co-direttrice di una galleria d'arte a Hong Kong. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Uno sguardo storico per cominciare. Dall'Italia sono emigrate dall'unificazione a oggi oltre 27 milioni e mezzo di persone e ne sono tornate meno di 10 milioni. Il nostro paese ha quindi perso quasi 18 milioni di cittadini. E quanto risulta dai dati del dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo? È il Veneto la regione sia col maggior numero di emigrati, oltre 3 milioni, sia col saldo migratorio più negativo. Nel complesso il nord è l'area che ha pagato il tributo più alto in termini di emigrazione, col 44% degli espatriati. Il 58% dei genitori di under 24 è sicuro che il lavoro per i figli ci sia, ma fuori dall'Italia, ad affermarlo la ricerca OMD. Per un genitore su due il figlio avrà difficoltà a trovare e mantenere un lavoro o a comprare casa nel bel paese. E se l'Italia non è un paese per giovani, quali sono allora gli stati su cui puntare? In quali nazioni i giovani vivono meglio? A fare chiarezza una ricerca in cui sono stati presi in considerazione 30 paesi svolta dall'International Youth Foundation. In testa alla classifica Australia, Svezia, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti. Particolare importante nella graduatoria, non è stata presa in considerazione la penisola. È pari a decine di migliaia di euro il danno prodotto da ciascun professionista emigrato con un'esperienza lavorativa fra i 3 e i 5 anni. I calcoli li ha fatti Francesca Contardi, AD di Page Personnel Italia. Le abbiamo chiesto quanto costi esattamente a un'azienda perdere un talento. La mia risposta è sicuramente costa tanto, più di quanto sicuramente possiamo immaginare. La mia analisi è partita direi da un elemento piuttosto semplice. Quando si seleziona una persona e si seleziona un talento, che è una parola che può avere 10.000 sfaccettature, non ci poniamo mai la domanda di dire ok, lo inserisco, ma se sbaglio l'inserimento o se questo inserimento non va bene e quindi va via, quanto mi è costato averlo a bordo e quanto mi è costato reclutarlo, inserirlo, formarlo e quanto business perdo nel momento in cui questa persona non va bene o va via? quindi vuol dire che io non vado bene come azienda a lui. E effettivamente il tanto lo abbiamo quantificato, perlomeno nella mia analisi, l'ho fatto su tre profili che in questo momento sono tre profili che vanno abbastanza bene su un mercato come quello italiano. La prima figura è una figura sales, cioè i venditori. Io avevo quantificato che un buon talento, cioè qualcuno di veramente bravo che va via dopo i primi 6 mesi dall'azienda, può costare a una società tra gli 80 e 100 mila euro. Ed è una cifra molto importante. Su profili anche più alti e più qualificati il costo sale, immagino. Assolutamente sì. Ci sono anche buone notizie, aumentano gli studenti stranieri nelle università italiane, ad affermarlo Alma Laurea, sono stati oltre 7.000 nel 2013 contro i 2.000 di 9 anni fa. Gli stranieri si orientano soprattutto verso discipline tecnico-scientifiche quali medicina ed economia. E parallelamente si avvicina all'obiettivo europeo del 20% il dato sulle esperienze di studio all'estero dei nostri neolaureati. Alma Laurea avverte però che gli studenti provenienti da contesti familiari meno favoriti dal punto di vista economico continuano ad avere minori chance di partecipare alla mobilità internazionale. Buone notizie anche sul fronte contro esodo: i ricercatori Andrea Lunardi, 43 anni, e Graziano Martello, 34, rientrano rispettivamente da Stati Uniti e Gran Bretagna, approdando alle università di Trento e Padova, un ritorno reso possibile dal finanziamento, $1 milione ciascuno, della Fondazione Armenise Harvard per 5 anni. E proprio la Fondazione Armenise Harvard ha lanciato anche quest'anno un bando per sostenere la ricerca dei giovani scienziati con borse da $200.000 annui per contribuire alla creazione di nuove aree di ricerca nel settore delle scienze biologiche in Italia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra scienziati italiani e la Harvard Medical School di Boston. Info su armeniseharvard.org/grants, scadenza per le candidature 15 luglio. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta subito prima della pausa estiva in Estremo Oriente. Andiamo a scoprire un ambiente culturalmente frizzante dove stanno mettendo radici i nostri giovani più globali e innovativi, anche nel campo dell'arte. Nome: Arianna. Cognome: Zellini. Età: 30. Città di origine: Faenza. Studi: laurea triennale in lingue e culture dell'Asia orientali, seguito da master in arte contemporanea. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Pechino. Perché? Per studiare cinese. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono una curatrice, lavoro come direttrice delle esibizioni. Dove? Galleria Exit ad Hong Kong. Tornerai? Sì, c'è un progetto di ritorno in Europa a breve termine e per restare. Ho avuto la possibilità di conoscere il mondo artistico e culturale del sud-est asiatico attraverso numerosi viaggi di ricerca, visite presso studi di artisti, colloqui con curatori e critici regionali e una costante ricerca. Il mio interesse e la mia curiosità sono cresciuti, portandomi a maturare personalmente e professionalmente. Riassumi così Arianna, giovani talenti @radio24.it, gli stimoli che hanno accompagnato e incentivato la tua carriera nel mondo dell'arte in Estremo Oriente. Quale mondo hai scoperto in Cina? Personalmente un mondo difficile, estremamente diverso e un po' incomprensibile, diciamo, da una cultura più occidentale. Un mondo che secondo me non aveva particolarmente senso, pieno di grandi estremi e paradossi, ed è quello che in parte mi ha attirato, cercare di capire, vivere all'interno di questo mondo. Riavvolgiamo il nastro della tua storia, l'ultima di questa stagione a Giovani Talenti, riportando le lancette del tempo indietro di oltre 10 anni. All'università ti iscrivi a Lingue, Culture e Società dell'Asia Orientale, Università Ca' Foscari di Venezia. Perché una scelta poi così particolare? Penso che la scelta sia dettata da una grandissima curiosità che ho sempre avuto nelle lingue e, diciamo, nelle culture diverse. Ho sempre avuto voglia di capire e entrare nei mondi in cui mi trovavo. Quindi avevo voglia di immergere in una realtà totalmente nuova e diversa e di staccarmi il più possibile da un mondo che mi sembrava un pochino in retromarcia e quindi diversamente buttarmi in un mondo totalmente nuovo. I tuoi studi sono segnati da continue esperienze in Cina, a Pechino e Nanchino, in particolare dove approfondisci la conoscenza della lingua in università. Qual è stato l'impatto con il mondo orientale? Un gran caos, ma da un punto di vista intellettuale, geografico, anche del pragmatico, insomma, ho trovato una grande difficoltà, diciamo, a cercare un ordine in quello che mi si trovava di fronte. Però quanto queste esperienze poi sono state decisive nel tracciare il tuo futuro? Sicuramente la voglia, appunto, di entrare in questo mondo diverso, e ci sono anche tanti aspetti ancora adesso che faccio fatica a capire, ma allo stesso tempo è quello che mi spinge a rimanere qua. Nel 2007 la laurea triennale, e ti chiedo subito allora un giudizio su un'università italiana da 1 a 10. Direi 6. Perché? Penso che l'università italiana debba andare a passare attraverso un processo di ringiovanimento. Potenzialmente potremmo essere veramente ad altissimi livelli, ma a causa di cattedre che non sono mai baroni, cattedre e baroni. Sì, insomma, non, per me l'università adesso è vecchia, con dei sistemi vecchi e mentalità vecchi. Vecchie e baroni, sì, vecchi. Però devo dire la verità che, per quanto mi riguarda, la Ca' Foscari è stata una scelta ottima, perché i professori che avevamo erano persone intraprendenti, estremamente professionali e preparatissime. E rimpiangi di non aver studiato direttamente all'estero, magari? Assolutamente no. Penso che comunque la cultura che noi riceviamo, sia dall'elementare fino all'università, è unica. Però c'è da dire che ritrovo estremamente importante fare dei soggiorni studi all'estero, imparare le lingue, cose che io ho avuto la fortuna di fare, perché altrimenti non abbiamo gli strumenti proprio per poter comunicare e stare all'estero. Subito dopo la laurea triennale parti per Shanghai. Allora ti chiedo perché e soprattutto com'è stato l'impatto, il doverti costruire una vita da zero in un contesto così culturalmente diverso? Shanghai in parte perché facevo fatica a vivere a Pechino. Pechino è una città difficilissima e Shanghai invece c'aveva, sia da un punto di vista architettonico ma anche abbastanza culturale, un pochino, era un po' un ingresso nel mondo europeo. Ed è una città estremamente dinamica, cosmopolita e comunque cinese. Non vedevo nessun futuro in Italia per me e quindi avevo bisogno di buttarmi e cercare di costruirmi da sola. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. A Shanghai ho iniziato a lavorare come interprete italiano, inglese e cinese per diverse aziende e poi anche alle Olimpiadi. Ricordi come è stato cominciare professionalmente, come ti sei costruita i primi contatti e quanto è competitiva ora professionalmente la Cina per un occidentale? Non è stato facile, tantissimi, diciamo, lavoretti occasionali all'inizio, dettati più che altro da conoscenza linguistica più che da contenuti. Per quanto riguarda la Cina di adesso, penso che sia molto più competitiva in quanto più regolarizzata in termini di visti, e gli stessi cinesi iniziano a formarsi un po' all'estero per poi ritornare in Cina con tutto il bagaglio culturale un po' che ci contraddistingue noi europei, quindi diciamo siamo sullo stesso livello. La tua prima esperienza in campo artistico è con la Galleria dell'Arco a Shanghai tra il 2008 e il 2009, via Prodi come assistente gallerista. Perché e soprattutto come passi al campo dell'arte? Diciamo che il mio breakthrough è avvenuto nell'estate del 2007, quando ad una convention di trattori, gru e pompe mi sono trovata a tradurre delle cose di cui non capivo niente e non ne capivo l'utilità. E quindi mi ero stufata di essere semplicemente un tramite, un mezzo, una specie di dizionario parlante. E l'arte, essendo sempre stata comunque una mia passione, l'ho messa in disparte, ho deciso comunque di buttarmi e Roberto di Galleria dell'Arco mi ha dato questa opportunità. Passione che decidi di approfondire con un master in arte contemporanea al Sotheby's Institute of Art di Singapore. Nel corso della scrittura della tesi decidi di trasferirti e arrivi appunto a Hong Kong, città dai forti stimoli in continuo cambiamento. La definisci quanto questo ha inciso sulla tua decisione di trasferirti nell'ex colonia inglese? Uno dei motivi che ha spinto Hong Kong è chiaramente la quasi impossibilità di riuscire a descrivere una città come Hong Kong, è il fatto di essere estremamente dinamica, infrenabile e che ti dia appunto la possibilità di svilupparti professionalmente. Venendo da Singapore, che era una città estremamente noiosa, avevo bisogno di entrare in un turbinio, diciamo, di grandi stimoli, e Hong Kong è risultata essere, insomma, la città giusta. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Arianna Gellini, 30 anni, co-direttrice di una galleria d'arte a Hong Kong, una carriera estremamente internazionale, quella di Arianna che prende le mosse da una laurea in Italia, propedeutica alla partenza verso l'estremo oriente. In Cina la sua vita trova la svolta, dal settore umanistico passa a quello culturale. A Hong Kong l'aspetta un ambiente artisticamente frizzante. Con lei chiudiamo la stagione di Giovani Talenti. Riprendiamo allora ora l'ascolto. Giovani talenti. Dopo un tirocinio e alcuni mesi di colloqui ricevi una proposta di lavoro con Osage Gallery, una delle più importanti gallerie asiatiche. Poi 2 anni fa decidi di lasciare il posto e lavorare inizialmente come curatrice indipendente, fino a quando nell'ottobre 2012 ricevi l'offerta da parte di Gallery Exit per lavorare come direttrice delle esibizioni. Cos'è innanzitutto Gallery Exit? Gallery Exit è una giovane galleria di Hong Kong aperta nel 2008 che tratta di artisti locali contemporanei, quindi artisti di Hong Kong, ma anche cinesi e alcuni del sud-est asiatico, estremamente edgy e concettuali, appunto, come dicevo. Arianna, da migliaia di chilometri di distanza, quali differenze osservi tra la scena artistica e galleristica in Cina e quella italiana, soprattutto a livello di valorizzazione dei giovani professionisti della cultura e anche dei giovani artisti? Penso che abbia a che fare proprio con l'idea di maturità diversa che c'è in Asia e in Europa. In Asia un trentenne viene visto come un giovane pieno nel fiore della propria carriera, mentre in Europa e in Italia specialmente sei ancora un bimbo e non c'è spazio per i giovani al momento, penso. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Sinceramente vedo l'Italia come un paese molto statico, con tutti i pro e i contro che questo può comportare. L'Italia è abitudinaria, è affezionata allo stile di vita e ai comfort che magari potevamo avere negli anni 50 o 60 o magari, e quindi affoga estremamente nel passato. Io vorrei ripartire in un'Italia da un punto di vista culturale, che non sia solamente legata a questioni o a discorsi elitari, ma che sia un pochino più aperta al pubblico e dove la gente è interessata a capire piuttosto che consumare della cultura facile e semplice. Ci raggiunge ora in linea Davide Quadrio, fondatore e curatore della Far East Far West Collection a Shanghai. Buon pomeriggio, Davide. Ciao, buongiorno Sergio. Davide, anche per te tutto comincia all'Università Ca' Foscari, ma alla Facoltà di Architettura e a distanza di 20 anni ora sei uno dei curatori italiani più noti in Estremo Oriente. Vieni definito un punto di riferimento culturale e istituzionale per gli scambi artistici cinesi col resto del mondo. Nel mezzo ti chiedo, qual è stato il tuo percorso per arrivare a questo traguardo? Ho studiato storia dell'arte all'interno appunto della Facoltà di Lingue Orientali e Cinese e poi sono venuto spessissimo, dal secondo anno in poi mi sono trasferito in Cina, ho avuto anche una borsa di studio per studiare all'Accademia di Belle Arti e poi mi sono trasferito qui a Hangzhou, vicino a Shanghai, poi mi sono trasferito quasi subito e ho cominciato a lavorare qui. Ho cominciato a lavorare nell'arte contemporanea alla metà, fine degli anni 90, quando a Shanghai non c'era ancora nulla praticamente, quindi abbiamo creato insieme a questo gruppo, a questo collettivo di artisti, il primo centro indipendente di arte contemporanea che si chiama BizArt, che adesso è stato chiuso, l'ho chiuso 3 anni fa, ed è stata un'avventura ovviamente abbastanza incredibile che prima o poi avrò il tempo di scrivere. Ecco, spero. Il tuo profilo attualmente è molto poliedrico, di cosa ti occupi nello specifico in due parole? Siccome appunto il sistema dell'arte contemporanea in Cina e in Asia è molto differente da quello europeo, per cui ci sono pochissimi fondi pubblici, per esempio, il rapporto che c'è con la produzione artistica e le istituzioni è estremamente complesso e labile, quindi professionalmente ovviamente mi occupo di arte, ma mi occupo di arte sia come curatore che come produttore e i committenti possono essere sia committenti istituzionali che entità private. Davide, la storia di Arianna è realmente incoraggiante, restituisce l'immagine di un Estremo Oriente culturalmente e artisticamente dinamico nelle opportunità professionali offerte nel settore artistico. Allora ritrovi questa esperienza di Arianna anche in altre storie che hai potuto testimoniare. Sì, una cosa che è abbastanza straordinaria in Cina è che il gruppo, diciamo, di italiani che si occupano di arte contemporanea a dei livelli particolarmente elevati e importanti è numerosissimo. Questa è una cosa che non si sa o che non si dice o che comunque insomma rimane ancora un po' nelle retrovie in Italia. Ci sono curatrici come Natalia Colonnello che lavora come indipendente a Pechino, ma che ha fondato un'importantissima galleria svizzera Ursmeile a Pechino. C'è Federica Beltrame che ha fondato e che è la direttrice attuale di Continua, un'altra avventura straordinaria italiana. Roberto Ceresia che da Palermo 5 anni fa si è trasferito a Shanghai, ha aperto una galleria che è una delle gallerie più interessanti e più innovative in Cina. Davide, tu sei molto critico verso l'Italia, definisci la presenza proposta dalle nostre istituzioni in Cina come vintage e denunci la mancanza di un sistema e le mille possibilità perse. Da dove nasce tanta arretratezza e chiusura culturale? Sì, sono molto critico non solo rispetto alle istituzioni italiane, in generale rispetto quando vedo delle possibilità che potrebbero appunto crescere ed migliorare le cose quando le vedo invece ridotte e vecchie appunto. Devo dire, prima stavate parlando con Arianna anche dell'università italiana, anche dell'Italia come sistema, c'è questa specie di, non vorrei dire di idea del vecchio, spazio, ma c'è più che altro questa grandissima presenza della paura. Io vedo questo nelle istituzioni, anche qui, il fatto appunto della mancanza di avere coraggio nelle azioni. L'ho visto per anni, moltissimo, infatti non ho praticamente mai lavorato con l'Italia fino a recentemente. Vedo però, e questa è una cosa positiva che devo dire, nelle istituzioni, soprattutto con la nuova generazione anche di persone che lavorano nelle istituzioni qui al consolato e all'ambasciata, un'apertura di un attimo diversa. Con questa nota di speranza ti salutiamo. Domanda di rito per Arianna. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Uscite. La cosa che è importante, l'esperienza all'estero ti aiutano a crescere, ti fanno crescere in tanti ambiti e ti costringono di crescere molto in fretta, perché tutto è nuovo, diverso e ti obbliga a mettere in gioco. Quindi io consiglio di uscire, per poi tornare ovviamente, però uscire è importante. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un manager per Coffee International Development a Varsavia, Polonia, scadenza per CV dopodomani, info su careers.coffee.com. Un junior legal counsel, avvocato junior per IKEA a Waterloo in Belgio, scadenza per CV dopodomani, info su inter.ikea.com. Infine un professore di aerodinamica computazionale all'Università Tecnologica di Delft in Olanda, scadenza per CV 31 luglio, info su tudelft.nl. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, diamo spazio alle riflessioni e alle lettere che inviate settimanalmente alla casella email giovanitalenti@radio24.it. L'ultima missiva di questa stagione è firmata da Diego, giovane ingegnere che sta lottando con le unghie e con i denti per restare in Italia. Le sirene americane lo richiamano con sempre maggiore insistenza, ma lui spera ancora di potercela fare e rimanere. Ma serve un paese competitivo per trattenerlo, in grado di restare tra i grandi del mondo, offrendo prospettive reali ai suoi giovani. Le chiacchiere e le promesse ormai fanno solo il solletico. In bocca al lupo, Diego. Il mio nome è Diego. Oggi ho ascoltato il suo programma alla radio. Sono un forse ancora giovane 38enne. Ho un background tecnico caratterizzato da una prima laurea in scienza dei materiali e una seconda laurea in ingegneria meccanica. Ho un'esperienza professionale pluriennale nell'ambito della ricerca e sviluppo, principalmente svolta nel settore dei dispositivi medici. Per accrescere le mie competenze manageriali, sto svolgendo un Master in Business Administration. Negli ultimi 10 anni ho svolto diverse e prolungate esperienze di lavoro orientate allo sviluppo di nuovi dispositivi e alla riduzione dei costi di fabbricazione. Ciò mi ha permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente in diverse aree. Ho gestito autonomamente progetti e attualmente gestisco gruppi di lavoro interdisciplinari a livello internazionale. Sono assunto presso una multinazionale del settore che nel 2009 ha acquisito la giovane e brillante piccola azienda familiare italiana per la quale lavoravo. A causa della scarsa competitività, le linee produttive verranno spostate in Messico, dove la manodopera ha un evidente minor costo, e seppur ci venga raccomandato di non preoccuparci, perché il sito italiano non è tra quelli che verranno soppressi, non si ha alcuna visione di strategie di medio termine che possano rendere sostenibile questa decisione. Non mi sbilancio se mi permetto di dire che l'interesse per la mia figura è molto forte, tant'è che dagli Stati Uniti mi aspetterebbero a braccia aperte. Le opportunità di crescita professionale non mancherebbero e la dinamicità del mercato del lavoro mi potrebbe permettere di fare esperienze anche in altre business units. Qui in Italia la prospettiva è di rimanere al proprio posto, svolgendo il compito che mi viene assegnato, senza alcuna possibilità di crescita professionale, in attesa che qualcuno si pronunci per il futuro della sede. Quindi mi chiedo, dopo tanta fatica, impegno e determinazione nel costruire un bagaglio di conoscenze e competenze, è possibile che non ci siano altre soluzioni per coronare la carriera professionale se non quella di emigrare da un paese che non valorizza il proprio capitale umano? Per adesso tengo duro, ma non so fino a quando. Un motivo per restare.